Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi tocchiamo un argomento che non è inusuale, nel senso che può capitare e fortunatamente nei vostri numerosi sportelli che offrite ai soci, insomma, dell'Adico, c'è proprio lo sportello adatto a questo, perché può succedere che ti arrivino delle bollette magari per delle utenze che non ci sono più, che non esistono più. Sì, come hai detto tu Francesco, qualche tempo fa l'Adico ha istituito questo sportello denominato testamento e successioni, proprio per gestire tutte quelle problematiche che normalmente alle persone capita di dover affrontare in seguito anche al decesso di qualche caro o di qualche familiare. E nel caso specifico abbiamo una signora che viveva a Milano, nel comune di Venezia, sempre in regola con tutte le utenze, che purtroppo viene a mancare da circa 3 anni, e al figlio, che sarebbe il socio a cui si è rivolto l'Adico, malgrado ha chiesto disdetta del contratto nel periodo successivo alla sua morte, è di poco tempo fa, riceve una bolletta di quasi 1600 euro relativa al periodo della morte della donna. Ecco, cosa bisogna fare a quel punto lì? Sì. Normalmente, a parte questa vicenda che si è un po' complicata, perché come ha detto il gestore, la documentazione per poter fare, per chiudere l'utenza non era completa, a quella che è la posizione dell'Adico, che comunque contesta il fatto che non si può mandare certe bollette senza preoccuparsi di come mai si è arrivati a una situazione del genere e come mai soprattutto si è già ricevuto una parte della documentazione, dovevano attivarsi per completare anche loro il fascicolo anziché aver mandato poi a una società di recupero credito di dover recuperare una cifra non spettante. In questo caso il signore, sì, come tutti quando capitano queste cose, deve provvedere a dare pronta comunicazione, però deve sapere che in caso di decesso senza un subentro è necessario anche esibire un atto di decesso della persona, perché in questo caso il signore ha agito su quella che dovrebbe essere tra virgolette una delega dell'utente, però certamente una situazione paradossale ma comune ai nostri uffici, perché normalmente scopriamo sempre che i gestori quando devono restituire i soldi indietro o capire il loro inghippo, le pratiche tendono sempre a complicarsi alquanto. Ecco, proprio a questo serve anche l'Adico, a cercare di mettere d'accordo le parti e trovare un punto d'incontro. Stavo pensando anche, oltre ai casi di persone che muoiono e quindi bisogna andare un po' a vedere di chiudere le varie utenze e quant'altro, c'è un'altra cosa che è di questi tempi, ci sono persone che magari vivono da sole e soffrono di Alzheimer, non sono più in grado di gestire le bollette, tutte queste cose, e ci vuole anche qualche parente, qualche persona vicina che si preoccupa di questo e che le segue in toto, no? Sì, a questo proposito Francesco, io ricordo che l'Adico nella sezione progetti speciali ha proprio dei sportelli dedicati a questo tipo di problematiche. Uno riguarda il testamento delle successioni, come detto nel caso anche di questa signora, che riguarda un po' tutte le problematiche che una persona può avere dal testamento alla successione, ai cambi di utente, trasferimento, alla pensione di reversibilità, eccetera. L'altro è proprio l'amministratore di sostegno, proprio perché ci abbiamo scoperto che molte volte purtroppo le persone non sanno da chi orientarsi, dove andare per disbrigare quelle pratiche indispensabili per poter comunque andare avanti con la vita ed evitare dispiacevoli intoppi, come è capitato anche nel caso del socio. E certamente l'amministratore di sostegno è un altro sportello molto importante, perché proprio per gli anziani o le persone che non sono più non disabili, ma in grado di sbrigare quelle che sono le loro ordinarie pratiche, e aiutiamo proprio le persone a risolvere questo genere di controversie o di problematiche che potrebbero insorgere. E sono molte, devo dire la verità, quindi assolutamente utile anche quest'altro sportello che avete aperto. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il sito dove andare a collegarsi in internet per avere i numeri di telefono e i contatti utili a sentire l'Adico. Io quindi ringrazierei anche per questa settimana il presidente Carlo Garofoli. Tra un paio di giorni un nuovo argomento. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.